24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Siamo dati una scadenza. Sì. Se il 27 maggio sta roba non arriva, allora vuol dire che Renzi è un buffone. L'ha detto lui, certo, parlando di sé in terza persona, che sono quelle cose un po' strane, un po' insolite, tipicamente italiane. Se il 27 di maggio non arrivano i soldi in busta paga a chi guadagna meno di, credo, 15.000 euro lordi l'anno, Renzi è un buffone. L'ha detto e prendiamo nota. Alle 6:35 minuti, cari italiani, buongiorno con 24 mattino. Oggi c'è Elisabetta Fusconi in redazione, incredibilmente sbrandata alle 5, insieme all'alpino Peter Bescapè. Lui si alza poco dopo il Papa alle 4:30, il Papa alle 4. E Peter ti batte, è ancora da studiare per arrivare lì. Allora io voglio aprire subito il Parlamento, lo apriamo? Con il caffè volentieri a tutti quanti. Vabbè, Nicole Minetti certamente ci offre sempre il caffè, gentilissima. Accorrete al Parlamento. E ritrovo Paolo Del Debbio. Buongiorno Del Debbio. Buongiorno. Conduttore di Quinta Colonna, come sta? Io mi alzo alle 3:55. certo. Allora, sì. Caro Paolo Del Debbio, ti presento una persona che secondo me anche lui si alza abbastanza presto. Sai chi sì. Abbiamo oggi con noi? Torna a trovarci Antonio Di Pietro. Buongiorno Di Pietro. Buongiorno. Buongiorno, io lo devo fare per forza perché sono gli animali che mi aspettano, che devono mangiare. che animali nutre? Adesso ha detto bene. No, ma che animali c'ha? Che animali c'ha? C'ho un paio di mucche, un paio di cavalli, un asino, un po' di qualche pecore, qualche capra, un po' di tacchini, galline, porci, qualche coniglio, insomma quello che ci fa il contadino, no? Siccome ha detto che Renzi, che adesso ci pensa tutto lui, sì. Io da buon contadino mi porto avanti a vedere cosa fare quando se poi Ho già capito che si fida del Debbio, ho già capito che Di Pietro si fida a metà di Matteo Renzi. No, ma insomma, diciamo, i conigli li tiene, poi se quello abbassa le tasse fa bene Di Pietro, ecco. Cosa sono i conigli e le galline? Una cosa che tanto Renzi non le assicura. E una cosa sono le tasse. Questo è certo. Ma Del Debbio, sapremo allora da chi andare a prendere un coniglio. Esatto, infatti. La questione è che ancora oggi i giornali titolano su questo modo, questa modalità, ancora il fatto, sai come lo chiama? Vanna Renzi. Ma io ho capito, Vanna montata, quello no. No, ma Di Pietro, le piace questo modo di Renzi o le sembra un po' Berlusconi? Subito. Guarda, a parte il fatto che, voglio dire, vendere il prodotto è una caratteristica positiva, perché comunque sia c'è bisogno non solo di produrre un buon formaggio, ma poi bisogna anche venderlo, perché mio padre una volta gli è capitato di fare mezzo ettaro di terra a meloni, ma si era scordato a chi doveva venderle, dopodiché quando sono maturate l'abbiamo perso tutto con un pomeriggio. Quindi fa bene a vendere bene il prodotto. Che prodotto è? Adesso non lo so. Quindi io, da buon cittadino, mi aspetto che dalle parole si passi ai fatti. Non voglio in alcun modo fare critiche preventive, ma non voglio ubriacarmi senza vino. Però Del Debbio, qui la questione è che se Renzi dice sono un buffone, potrebbe addirittura arrivare, che può succedere, per cui non so, gli si mettono attraverso i burocrati di Roma, no? che lo ostacoleranno, oppure ce la farà dare questi guardi, soldi? Guardi, i burocrati, e Di Pietro lo sa meglio di me, si mettono di traverso, talora anche quando trovano qualcuno di abbastanza forte, ma generalmente si mettono di traverso quando vedono che la persona che li guida o che li dovrebbe guidare è fatta di burro. quando vedono che è fatto proprio di materie un po' più consistenti, cioè dalla margarina in su, e allora voglio dire, insomma, ci pensano. Sì, è una prova di forza, insomma. Però oggi il Corriere... Ma questo succede a qualsiasi livello. No, ma è chiaro. Consigliere comunale, in provincia, in regione, dovunque. Però oggi sul Corriere della dipende Sera c'è... Dipende da quanto hai le idee chiare e dipende anche da quanto, diciamo, si porti avanti le cose. È chiaro. C'è però un deputato... Il burocrate attacca il cavallo dove l'attacca il padrone. Ecco là. C'è un deputato del PD, renziano, che sul Corriere dice: per favore non dica il mio nome, ma temo che stiamo perdendo la battaglia contro la burocrazia e sbatteremo contro un muro. Di Pietro... No, molti sono arrivati lì da ora. È chiaro, cioè, è chiaro. Quindi li mette anche paura. Non sono quattro altroni, cioè sono gente anche preparata. Ti mette anche paura, perché quando ti dice è chiaro, lei non conosce gli arcana imperi, capito? Cominciamo queste cose qui, allora inizia con latino, la ragioneria, la tesoreria, il Cristo, cioè, capito? Uno dice, aspetta un momento, allora ce la faccio o no? È chiaro, cioè, è chiaro. Vediamo un po' che no. Di Pietro è stato anche ministro. Allora, Di Pietro, appunto, questa burocrazia che rema contro esiste e come la identifichiamo? Primo giorno che sono andato a fare il ministro, la prima volta mi fu detto dall'allora mio capo di gabinetto, che io innanzitutto ho dovuto capire che vuol dire, perché pensavo tutt'altra cosa quando chiamavo il responsabile del gabinetto del ministro, mi fu detto: attenzione, perché i politici passano, i burocrati restano, quindi sotto questo aspetto il burocrate possa fare, disfare, mettersi a fare lo sgambetto è vero. Anche vero in questo momento, e anche vero, io condivido quello che diceva prima l'altro ospite, cioè insomma sono forti con i deboli con i forti poi alla fine. Quindi voglio dire, non bisogna generalizzare. Il problema di fondo è molto semplice: ci sono i soldi per fare tutto questo, o sono sempre come i carri armati di Mussolini, sono sempre quelli che capito. Tirano da una parte o dall'altra? Ma le, pare che, non l'ho ma le pare che Renzi dica una cosa del genere e poi dice: sono un buffone se non ce la faccio, e poi tra un mese e mezzo andiamo a dirgli buffone. Ma quando gli hai detto buffone tu o io, che io non c'è bisogno, gli dico buffone perché il coniglio e il pollo per mangiare ce l'ho, ma al povero Cristo, quando si è tolto lo sfizio di dire buffone, ma non c'ha più da mangiare, non gliene frega niente. Quindi a noi non interessa, voglio dire, gli puoi dire o non gli puoi dire buffone, a noi interessa e dovremmo responsabilmente che lo faccia. Io, ripeto, non faccio parte né degli, diciamo così, di afficionato di Renzo, né della sua squadra. Però da cittadino, voglio dire, se riesce a portare a porto quel che dice, contento. Ma questo sì. Intanto bisogna capire se toccherà le pensioni del Debbio, toccherà le pensioni. No, ha detto da 3.000 euro in su, ha subito smentito Cottarelli pareva da 2.000 in su, ed è Renzi, no, da 3.000 in su, se no non si toccano le pensioni. Vabbè, insomma, chi decide non è Cottarelli, Cottarelli tra un po' diventerà Cottarello veramente, nel senso che no, addirittura no. Quel che doveva fare fatto, non è che sta lì a vita. Cioè, ho l'impressione che Renzi poi voglia fare le cose come decide lui, ma giustamente, insomma, cioè, a me piace questo modo di proporsi. Non è berlusconiano? No, mi piace, perché ha ragione. Guarda, sono d'accordo con Di Pietro quando dice che praticamente poi dopo il prodotto va anche, cioè, va spiegato. Ora, molte conferenze stampa, devo dire la verità, se guardava un cittadino comune non capiva un'acca. Diciamo le cose come stanno. Se l'ha guardato un cittadino comune questa conferenza stampa, poi se le farà o no vedremo, cioè, diamole anche un po' di tempo, poveraccio, se le vedeva uno con la quinta di restare, capiva chi è l'altro giorno. E certo, ma lui parla così, parla alla gente, non parlava mica ai giornalisti, ma chiaro, mica parlava degli editorialisti italiani. Ma infatti lì c'erano i giornalisti, che ieri Claudio Velardi qui ci ha definito un popolo di morti, siete morti a stupirvi delle slide, mentre la gente a casa capiva benissimo. Appunto, allora ci ha fatto le slide, madonna mia, che facevano alla scuola media, sì, infatti, ero io fa un po', cioè non è che ma ancora oggi su tutti ma ancora oggi su tutti i giornali commentano Gian Antonio Stella sul Corriere, slide, il modo, il metodo. Poi non vendono i giornali in Italia cazzo, se si meravigliano delle slide, figurati dove siamo. Di Pietro lei le faceva le slide, poi tutte le critiche ha fatto le slide, fa le slide, è un venditore di fumo, e che c'è, no vabbè, di fumo no, magari insomma di pentole, non lo so. Di Pietro le slide le faceva, Di Pietro siamo un po' vecchiotti in questo effettivamente. Allora se voi non avete più di 20 anni, ricorderete le slide del processo Enimont, quindi il PM di Pietro già aveva, cioè, le faceva con le slide i processi 20 anni fa. Va bene, sentiamo Travaglio che lo chiama, com'è che lo chiama, Renzi? Televendita pirotecnica in stile potevamo stupirvi con effetti speciali, Renzi alla lavagna con i disegnini, il pesciolino e i numeretti, era meglio di Vanna Marchi con le pirofile e di Mastrota con i materassi. Infatti sul web l'hanno accostato, Dell'Utri gli ha subito fatto i complimenti, ha detto lo assumerei oggi a Publitalia. 24 mattino. Sì, Milan, siamo tutti felici, è nata la nuova legge elettorale, l'hanno chiamata Italicum, io lo chiamerei però Troiaium. Io consiglierei vivamente a Renzi, per fare una cosa fatta bene, da andarsi a mangiare un bel panino in Lampedotto, farebbe meno danno, guarda. Dobra Vecur e Dobra Gena, Kuopaki, sono pronto a fare la parte povera dell'Europa. Abbiamo meritato questo? Ciao Milan. Salve Milan, una considerazione piccola e breve. Renzi è l'Achille Lauro della Seconda Repubblica. Ciao, buongiorno. Nel Veneto dicono che sacco ne furiga. Dille a Matteo Renzi che sacco ne furiga. Devo dire, le chiacchiere non fanno niente. Ciao. Ciao Milan. Senti, ma ci spieghi una cosa, ma com'è che prima non si riuscivano a trovare tipo 4 miliardi per l'IMU, l'ICI o quel cavolo che è, mo dal cappello sono usciti 10 miliardi subito più altri 10 miliardi così da vedere, in totale 20 miliardi, ma da dove cacchio sono usciti questi soldi? Ciao, grazie. Ciao Alessandro, sono Carla da Cuneo, ascoltami. Ma che palle sti pessimisti del mattino. Allora, se Renzi è una persona umana, ci trasmette quell'ottimismo che ci va proprio bene, guarda. Se poi lui è così, ma chi se ne frega? Basta che noi otteniamo dei risultati. Ciao Alessandro, sei un mito! Vabbè, devo dire che questa signora è l'unica ottimista, perché effettivamente però è un pessimismo totale, tutti a criticare le chiacchiere. Allora siamo con Paolo Del Debbio e Antonio Di Pietro, chi è che vuole dire questo? Questo manda a mangiare il panino con Lampredotto, hai sentito? Sì, il Lampredotto. Lo sai cos'è? Ma tu ci dirai bene. È un panino con il stomaco di bovino, buono da morire. Che c'ha di Pietro? A me italiano che è Lampredotto, è Lampredotto del Debbio, ce lo dici un po', cos'è sto Lampredotto? Il Lampredotto è il panino fiorentino, quello che si fa con uno degli stomaci del bovino. Ah, fantastico. È buono da morire. Però del Debbio non è di Firenze, del Debbio è di Lucca, vero? Di Lucca, no, Lucca, per gran tifoso della squadra rossonera, la Lucchese, la Lucchese. Siamo in prima. Allora, dire una cosa, sì. con riferimento alla cosa diceva uno dei commentatori prima, dice, sì. Ma com'è che adesso ci stanno i soldi e prima ci stanno i soldi? Adesso, diciamo, io ripeto, non ero d'accordo nemmeno con Letta, perché io sono dell'idea che quando non c'è una maggioranza eletta dal popolo è meglio andare a votare che a fare sulle amorchie. E tanto è vero che io mi trovo fuori dal Parlamento proprio perché al suo tempo non mi adattai a stare insieme al governo Monti con tutto il resto. Ora, stabilito questo, sì. Però Io credo che Renzi questi miliardi se li ha trovati, non è che l'ha trovati sotto il mattone, li ha trovati perché chi c'era prima di lui ci ha lavorato, quindi vorrei in questo momento ricordare un nome che io, ripeto, non condividevo Letta, di cui va apprezzata una cosa in questi giorni: il silenzio. Se ne sta zitto, il silenzio, perché quel silenzio, altrimenti se gli scappasse qualche parola, andrebbe a dire: senti, ma non è che forse quelli che hai trovato sotto il mattone sono miei? Sono miei. Allora ci sarebbe, ci sarebbe da parlare di questa vicenda, no? L'ultima disavventura che il giornale ha subito riversato su Berlusconi, la dama bianca, no? Questa ragazza che è diventata famosa perché accompagnò Berlusconi al G8 in Canada, è stata fermata con 24 kg di cocaina al ritorno dal Venezuela. Del debbio. Subito all'inizio ha detto. Sono accorto perché strascinava la borsa, ce la faceva. Perché? Ma dove le aveva messe? No, ma non lo so, nella valigia, nello zaino, i panetti. No, ma deve essere in qualche altro luogo, come dice Di Pietro del debbio, no, tra l'altro di prima mattina dice del debbio, insomma, no, e che cazzo, scusi, ma li mette in una borsa 24 chili sono palle casta qua, oh. No, sono in uno zainetto, comunque subito ha detto capito, è uguale un zainetto, poi subito subito ha detto non sono miei, cioè subito a mia insaputa, subito, però poi ha retto poco. Scaiola. Però attenzione, Di Pietro, ci sarebbe questo titolo della stampa, addirittura la danno la ex di pietrista romana, ma che si è candidata una volta a Roma anche per l'Italia dei Valori, e questa Gagliardi, Ama l'Italia dei Valori. Sì, perché l'Italia dei Valori sono passati tutti quanti, quelli che prima sono venuti da me, sono tutti andati a Berlusconi dopo. E infatti alle amministrative di tanti anni fa si candidò. Faceva il controllo qualità. Sì, esatto. Di Pietro è ISO 9000. No, Di Pietro non è che faceva il controllo qualità, dice del debito, e poi andavano da Berlusconi. No. Ma io non avevo grande attrezzo, usavo soltanto le mani. Vabbè. Comunque no, sei candidata anni fa alle amministrative di Roma, dell'Italia dei Valori, ma ha preso 20 voti, credo. No, 24. Ha preso 24 preferenze e 24 chili, effettivamente. Però Di Pietro, lei che è garantista, non mi dirà mica che adesso Berlusconi c'entra in questa storia. Per adesso, ma non esageriamo, voglio dire. Non è che tutti quelli che ti girano intorno sei colpevole che ti girano intorno, c'è tante altre cose da dire su Berlusconi, che questa proprio gliela risparmia. Questa ce la risparmia del debito, almeno questo Di Pietro dice non c'entra Berlusconi. Visto, c'è una consapevolezza. Come va avanti Di Pietro in conclusione il processo lì a Napoli? Ce la farà incastrare Berlusconi? Sul piano fattuale, la novità sta nel messaggio che ha mandato ieri la Vittola. Ha detto, poiché ha parlato De Gregorio, quindi l'avete messo fuori, io siccome voglio andare fuori, voglio parlare anch'io, ditemi quello che volete sapere, io vi dico tutto quello che volete voi. Il messaggio è molto chiaro. Molto chiaro, è molto chiaro, ma non è a loro, è a chi sta fuori. Voi ricordatevi di me, che posso parlare pure io. Attenzione, i messaggi capisci a me, eccolo lì, Va bene, io vi devo salutare. Antonio Di Pietro dell'Italia dei Valori, presidente dell'Italia dei Valori, Paolo Del Debbio, lunedì parlerà di Renzi. Io sono combattente reduce, no, ma non si, ma si candida, no? Si candida alle europee, ma è vero. Non lascio candidare i giovani, l'Italia dei Valori si candiderà, ma io... tutti dicono che bisogna fare anche i giovani, allora non si cambia, non si cambia. Da quando mi hanno fatto la prossima, mi hanno detto di fare un passo indietro. va bene. No, non si candida per la prostata, va bene. Cari Del Debbio Di Pietro, grazie, alla prossima. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Allora,

i giudici accusano l'Italia è uno stato biscazziere. È una vicenda che abbiamo trattato molte volte proprio con questo aspetto. Ma perché contrastare, che ne so, le sale da gioco se lo Stato stesso chiede con tutti i gratta e vinci, il lotto, i premi, fa soldi su questo, e se lo ha chiesto anche il TAR di Milano, che con questa motivazione ha sospeso un'ordinanza del comune che voleva chiudere una sala scommesse, dicendo il legislatore, quindi lo Stato, favorisce il gioco d'azzardo per aumentare le tasse e aumentare le entrate fiscali, e quindi il comune di Milano non può chiudere una sala giochi, perché lo Stato già con altri gratta e vinci, lotto, appunto, eccetera, con altri mezzi fa soldi allo stesso modo, e dunque evidentemente lo può fare anche una sala di gioco legale organizzato, ovviamente. Bene, siamo al momento della carta costa? Beh, ma sì, e oggi stravince Libero a pagina 22 con l'articolo più inutile scovato sui giornali. Il titolo è già tutto un programma. Un'intera pagina, peraltro, dal titolo 20 anni prima. Le cose che sono sparite, a partire dalla nebbia. Giordano Tedoldi che si chiede anche, ma dove sono le nevi di un tempo? Dov'è la nebbia a Milano? La gente se lo chiede, ma no, non se lo chiede la gente, non gliene frega niente di chiedersi queste cose e di leggersi una pagina su Libero a chiedere dove sono finite le cabine telefoniche, dove è finito il totocalcio, ma chi se ne frega, la carta costa, andrebbe capito. 24 mattino. Siamo qua, allora sono le 8 e 19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Abbiamo una serie di ospiti oggi con cui vogliamo parlare. La prima ospite è colei che è stata ministra per l'integrazione del governo Letta, un ruolo che anche le ha comportato un'attenzione mediatica notevole. Oggi è deputata del Partito Democratico, si tratta di Cécile Kyenge, che saluto. Buongiorno onorevole, benvenuta. Buongiorno. Tra l'altro da qualche tempo, da circa un mese, da qualche giorno, lei ha pubblicato anche un libro intitolato Ho sognato una strada, edito da PM, in cui parla delle battaglie che in pratica ha portato avanti anche da ministro, prima di tutto l'integrazione. Intanto le chiedo questo, lei crede ancora che lo ius soli sia il futuro verso cui deve andare l'Italia, cioè legare la cittadinanza alla nascita in Italia? Sì, io sono fortemente convinta, sempre più convinta più passa il tempo, che dovremo sicuramente cercare di agevolare le persone, soprattutto i giovani, su questa strada, perché le persone che nascono da genitori che hanno fatto un percorso di integrazione sono persone che hanno diritto, come tutti i giovani, a poter sognare un futuro. Ecco perché sono convinta proprio che, insomma, bisogna andare verso questa strada. Ma vede per esempio il nuovo governo Renzi impegnato come quello Letta su questo fronte? Sa che molti hanno letto anche la cancellazione del suo ministero come un segnale non positivo? Devo dire che è un po' presto per poter valutare e giudicare comunque l'operato in questo momento su questo tema, anche perché molte deleghe devono ancora essere assegnate, per cui io non sarei ancora molto veloce a poter giudicare e a dover guardare. C'è da dire una cosa positiva, che il Premier sia in tutto il tempo anche al governo, comunque ha sempre parlato, anche nel suo discorso di insediamento al Senato e alla Camera, ha parlato dell'importanza di questo tema, della cittadinanza. Quindi io sono ottimista nel poter pensare che questo tema sicuramente verrà portato avanti. Senta, un punto centrale è quello dell'Europa. Infatti le indiscrezioni parlano di lei come possibile candidata agli europei per portare questa battaglia in Europa più che in Italia. Ce lo può intanto confermare o smentire, o non si sa ancora, si candiderà alle europee? Beh, le liste del Partito Democratico devono ancora uscire, quindi direi che tutto quello che non è uscito, insomma, che non è uscito in questo momento, non possa essere considerata come una notizia ufficiale, quindi bisogna aspettare le liste del Però lei ci può dire quello che auspica lei, cioè vuole continuare questa battaglia in Italia o pensa che sia più fattibile continuarla in Europa? Ma io devo solo dire una cosa, che questa battaglia l'ho iniziata in Italia, ma l'ho portata in Europa esattamente nel mese di luglio del 2013. Sono stata invitata a Bruxelles a luglio del 2013 e ho portato nella commissione LIBE, ma anche quella delle pari opportunità, ho portato avanti questo tema all'interno della Commissione europea, per cui è un tema che io trattavo sia da un punto di vista nazionale sia da un punto di vista europeo, è andata avanti per tutta la legislatura seguendo i due binari, per cui per me era già una strada tracciata, non è una strada nuova. Cioè dice non c'è bisogno di candidarsi in Europa per portarla avanti, però rimane il giallo, ecco, quando verrà? Questo giallo credo che verrà svelata dalla presentazione delle liste, però credo che il nostro paese deve pensare sempre di più in chiave europeista. Cioè noi dobbiamo pensare che siamo all'interno di una grande famiglia, come tale dobbiamo anche cominciare a pensare alle nostre politiche in una chiave transnazionale. Sì, questo sì, ma insomma neanche il suo auspicio ci vuol dire, le liste vabbè verranno svelate, ma lei cosa preferirebbe fare ce lo può dire poi? Beh, un po' presto, io ho ripreso il mio lavoro all'interno del Parlamento, sì, tenendo ben presente che quello che facevo nel governo, cioè gli obiettivi, anche i temi che portavo avanti, li sto portando avanti anche all'interno del Parlamento, questo certamente. Quindi cittadinanza, integrazione, lotta contro razzismo, xenofobia e qualunque tipo di discriminazione, li porto e continuo a portarla avanti, come anche le politiche giovanili. Ma senta, ma siamo davvero un paese razzista secondo lei? Cioè bisogna fare queste battaglie perché vede del razzismo latente in Italia quando gira? Lei è stata anche al centro, bersaglio di tante critiche, un'attenzione mediatica forse che non si aspettava come ministro. Vede il paese ancora arretrato da questo punto di vista, il paese italiano? Ma bisogna distinguere alcuni punti, cioè nel senso l'Italia non è un paese razzista, quello che manca all'Italia ma è una consapevolezza da parte di tante persone, anche di alcuni diritti, cioè che vengono molte volte confusa con una cattiva magari informazione, dove le persone non hanno degli strumenti giusti per poter giudicare e quindi si lasciano prendere facilmente dal populismo, da frasi che alla fine sono stereotipi e non sono la verità sulle persone. Sì. Io ho sempre detto che l'Italia non è razzista, però gli servono degli strumenti, sono quelli che noi dovremmo mettere in atto a livello nazionale, a livello locale, dovremmo promuoverli ma con una trasparenza e una conoscenza di un fenomeno migratorio che non può essere uguale a delinquenza. Però questo certamente, però onorevole Chieng, per molti italiani il suo ministero è stato un ministero di bandiera, cioè si voleva mettere, molti l'hanno detto esplicitamente, un ministro dalla pelle nera. Lei cosa risponde a chi giudica il suo ministero un ministero inutile? Beh, è proprio per quello che dico che manca la consapevolezza di alcune politiche, perché questo ministero, cioè parliamo delle politiche per l'integrazione, come gli ho parlato della cittadinanza, rimango convinta che sono politiche per il futuro, perché serve comunque una linea nazionale, delle linee nazionali per cercare di orientare, di guidare il paese. Il paese ha bisogno di strumenti, il paese ha bisogno comunque di punti di riferimento, ma anche di un modello di integrazione che passi per la via italiana, e questa non è un fai da te, passa attraverso un punto di coordinamento, passa attraverso il fatto di mettere insieme la parte culturale, la parte della normativa, e non possiamo sempre essere guidata come politica dalla giurisprudenza, che penso che a un certo punto il paese, ma anche la classe politica, debba cominciare a anticipare i tempi, a capire e trasformare quelle che sono le esigenze del territorio. In questo momento l'Italia è passata da un paese di emigrazione a quella di immigrazione, sì, cioè richiede altri strumenti che dovrò mettere allo stesso tavolo studiosi, antropologi, sociologi, ma non solo in un settore come sia fondamentale quella della scuola, ma in tutti i settori, lavoro, scuola, economia. Sì, certo, politica. Cioè essere aperti a questo fronte. Ma quindi le è un po' dispiaciuto non far parte del governo Renzi oppure no, sono scelte che si fanno? Beh, io parto dall'idea che chi fa politica sa che insomma le scelte poi dipendono anche dalla persona in quel momento, cioè nel senso il premier sceglie la sua squadra, sceglie le persone cioè che devono accompagnare nella sua squadra. Ciò che mi dispiace è che deve comunque continuare questa idea di multiculturalismo, deve continuare questa idea dell'importanza delle diversità. Questa, se devo dire, non dispiace la mia presenza o la mia persona, ma mi piacerebbe che questo tema andasse avanti così come è stato portato in precedenza, potesse incidere sempre di più, certo. E soprattutto alla vigilia del semestre europeo. No, ma chiaramente, indipendentemente dalle persone, questo sì. Le chiedo questo, ieri l'eurodeputata Lara Comi, qui a Radio 24, alla Zanzara, ha detto che non era il caso di fare ministro Marianna Madia perché è incinta e tra poco dovrà badare la figlia. Ha fatto anche questo esempio per il quale poi ha smentito, perché è un esempio un po' infelice. Se io mi spacco una gamba non pretendo di fare i 100 metri. Ovviamente la gravidanza non è una malattia, messa così sembrava quasi una situazione invalidante e invece non è così. Però che ne pensa di questo giudizio di Lara Comi? Ma mi sembra una cosa, cioè è troppo forte, perché qui stiamo parlando di uno stato naturale, cioè lei sta parlando con un medico, per cui io so che la gravidanza fa parte della vita di una persona, cioè noi stiamo parlando di una persona che sta attraversando una fase della propria vita e non è una malattia. A questo sì, però l'idea se può fare il ministro contemporaneamente, visto che è anche un ministero molto importante, quello della pubblica amministrazione. Ma io penso che si può fare tutto, si può fare anche il ministro. L'importante è che quando si fanno delle scelte così forti si devono mettere in atto anche strumenti per la protezione e l'accompagnamento delle persone nel loro mestiere, cioè non basta una scelta che io condivido, cioè nel senso che può andare avanti. Quello che deve essere messo in atto è quello di accompagnare e sostenere le persone. Ora, non vorrei fare un confronto infelice, cioè nel senso la mia nomina al governo è stata una nomina forte, insomma di scelta anche di rottura culturale, però come ho scritto anche all'interno del libro, non basta il Ministero per l'integrazione, doveva essere accompagnato anche dalle scelte forti per il cambiamento culturale, ma anche per poter incidere all'interno di un governo. E che non ci, cioè, non ci sono state? Bene, non ci sono, e che deve essere, non ci sono state? No, cioè, sono mancate alcune cose, cioè la scelta è forte, io la trovo lungimirante, deve andare avanti così, però le difficoltà sono state comunque enormi, cioè nel senso io mi considero dopo 10 mesi di governo di poter metterlo a disposizione per rafforzare questo tipo di politica. Cioè una scelta non è la scelta che va discussa, è il fatto che devono comunque, qualunque scelta di rottura di una va accompagnata. Ma cosa è mancato? Mi faccio un esempio di quello che è mancato dopo la sua scelta, cosa è mancato di politiche di governo? Da una parte era un ministero senza portafoglio, cioè per cui ministero senza portafoglio lo sanno tutti, insomma, che non ha delle risorse da mettere a disposizione per poter investire in un cambiamento forte. Ciò nonostante, comunque, noi siamo riusciti a portare avanti una metodologia, un percorso molto forte di partenariato, di protocolli con il territorio, perché questa era l'idea forte, però non avendo risorse è chiaro che tutto quello che poi deve portare avanti un ministero senza portafoglio incide sulla presidenza, e questa per esempio a livello del paese comunque poi deve essere spiegato che ogni ministero, certo, che ha un dipartimento ha un suo bilancio, ha ministero dell'integrazione non aveva un, ma questo a dire, mi scusi onorevole Kieng, che anche lei ci sta un pochino dicendo che è stata fatta una scelta d'immagine ma poi non assolutamente no, è stata una scelta giusta e lungimirante. Quella che sto dicendo è che bisognava dare qualche elemento in più, è diverso da una scelta d'immagine. Una scelta d'immagine è lì e non ha, mentre il Ministero per l'integrazione a suo tempo ha portato avanti delle battaglie, sono anche battaglie importanti, sì, come quella della lotta, cioè il piano triennale contro il razzismo, il fatto di a pochi giorni, adesso noi dovremmo sarà firmata un patto per un'Europa delle diversità fatto con tutti i paesi europei. Questo sono stati portati avanti campagne importanti come quella della cittadinanza, quindi non era una scelta d'immagine, è un ministero che ha lavorato e ha portato avanti alcuni temi molto sì, però forti. Lei dice doveva essere più magari più rafforzato, per esempio dando il portafoglio, come si suol dire per i ministeri, con portafoglio. Senta, non aveva un dipartimento, questo è chiaro, e tutto quello che passa da quel ministero è chiaro che finisce sulla presidenza, al punto da far fare dei paragoni che dispiace dirlo, ma perché sono passati anche su alcune giornali, su che la ministra ha speso più di questo, ma non era senza portafoglio, per forza doveva dipendere dal ministero, dalla presidenza del Consiglio, non ha un dipartimento. Paragone inesatta, perché passa un'informazione sbagliata, cioè a livello della comunicazione. Perché le sue spese dipendevano dalla presidenza di Palazzo Chigi. No, senza un bilancio e senza un dipartimento. Per concludere le chiedo questo, onorevole Chienghe, i rapporti con i leghisti è la cosa che forse l'ha fatto più male di questi 10 mesi? Diciamo questa cosa ha fatto male, sì, però io parto dall'idea che ciò che magari può far male ancora di più è l'indifferenza, il silenzio. Io potrei dire in alcuni casi, cioè questo confronto, questa lotta con una parte che si è sempre dichiarato comunque essere contrario, che a un certo punto si faceva soltanto pubblicità, cioè la cosa più dolorosa è il fatto che si continua a fare campagna elettorale, pubblicità sulle persone, cioè, e senza andare nel merito e nell'approfondire le cose. E se mi permette, aggiungo solo questa, poi lo potete anche approfondire. Cioè, ho visto quello che è stato fatto passare come novità per il governatore Zaia, quando bisogna andare nel merito delle questioni, parlare del co-sviluppo, parlare e mettere al centro le persone, perché qui si parla di diritti sociali e economici. Sì. Cioè una persona non è un pacco che si rimanda indietro, ma entra in un concetto, in un fenomeno, in una rete dove inevitabilmente devi parlare anche dei diritti, perché quella persona che va indietro per tutti gli anni che ha investito in Italia, che soluzione intende dare per quanto riguarda i propri contributi, per quanto riguarda anche il fatto del riconoscimento dei titoli, cioè vuol dire che ti devi assolutamente rapportare con il governo centrale, con il paese di origine. Lei si riferisce alla decisione del governatore Zaia, o meglio del governatore del Veneto, che dice insomma diamo la possibilità di investire anche in opere di microcredito per gli immigrati che vogliono tornare nel loro paese. Io con questo la ringrazio, onorevole Chienghe, per essere stata con noi del Partito Democratico. Tra l'altro ha fatto questa dichiarazione perché proprio dopo la pubblicità, tra 6 minuti, avremo il governatore del Veneto Luca Zaia, gli chiederemo di questa iniziativa. 24 mattino. Eccoci alle 8:41 minuti, voglio subito salutare il governatore del Veneto Luca Zaia della Lega. Buongiorno Zaia, ben ritrovato. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Allora, poco fa avevamo l'ex ministro Chienghe che è proprio riferita all'iniziativa del Veneto che lei ha annunciato, cioè di usare buona parte del budget destinato alla consulta dell'immigrazione per favorire per esempio anche i prestiti d'onore per gli stranieri che magari vogliono aprire un'attività e tornare in patria. Io lo traduco così, aiutiamoli a casa loro. Ha detto, ma non sono mica pacchi postali, le persone hanno acquisito dei diritti d'Italia, per esempio i diritti della previdenza. Come la mettiamo, Zaia? Lei li vuole rimandare via? No, guardi, questa non è un'azione razzista o xenofoba. Noi abbiamo richieste di molti lavoratori che contribuiscono alla formazione, o meglio contribuivano alla formazione del nostro prodotto interno lordo, tra l'altro per un 5% del popolo immigrato, che sono qui da soli, non hanno mai fatto ricongiungimento familiare, avevano un progetto di vita finalizzato semplicemente a lavorare e a mandare a casa soldi, che oggi sono disoccupati e non sanno di che vivere e vorrebbero tornarsene a casa. Io penso che prima vengono i nostri lavoratori. In Veneto ci sono 170.000 disoccupati, circa 30.000 dei quali sono immigrati. Se possiamo fare in modo che tornino a casa loro aiutandoli, direi che questa è una buona operazione che valorizza le loro aspettative e ovviamente crea più possibilità di occupazione per i nostri cittadini. Però se lei, Zaia, mi scusi, dice prima vengono i nostri lavoratori, sembra appunto un tentativo, certo non di prenderli e cacciarli a calci, ma anzi magari aiutarli con i prestiti d'onore, però per facilitare il fatto che se ne vadano. Ma guardi, io non penso di aver detto un'eresia, rappresento colui che per primo in Italia ha aperto gli sportelli di informazione per gli immigrati. Ho fatto nel 1995 i corsi di formazione per gli immigrati in provincia di Treviso. La nostra comunità conosce l'integrazione, quella vera, non quella finta. Però è altrettanto vero che un popolo come i Veneti, che conosce oggi la disoccupazione, bene e che abbia delle risposte. Il che vuol dire che in questo popolo di Veneti ci sono moltissimi immigrati che si sono integrati, hanno un progetto di vita stabile in Veneto, che non sono quegli immigrati invece che qui non hanno famiglia, non hanno nulla. Cosa risponde Zaia, per esempio, allo scetticismo della Caritas, che mi pare abbia detto fino a questo momento progetti di questo genere, anche tentativi passati, sono rivelati buchi nell'acqua? Per esempio, uno magari torna in un paese finanziato dalla Regione Veneto, poi l'attività la va male e magari prova a ritornare in Italia, non lo so. Beh, ne vengono fuori le lacune del nostro paese, che ha leggi per le politiche per l'immigrazione molto discutibili. Guardi, noi conosciamo l'emigrazione, noi abbiamo più veneti fuori dal Veneto che in Veneto. Io stesso, mio nonno che è nato in Brasile, tanto per dire. Però è altrettanto vero che l'immigrazione deve essere regolamentata. E poi diciamolo fino in fondo, abbiamo due grandi fenomeni di immigrazione in Italia. Il primo, che è dato da lavoratori stranieri che vengono qui con un progetto lavorativo, né più né meno di quello che molti cittadini, anche veneti, che so, vanno in Germania o da altre parti a lavorare. Tant'è vero che questi lavoratori immigrati, le faccio un esempio, il Maghreb, il Nord Africa, vengono qui e poi se ne vanno a casa un mese d'estate per fare le vacanze, come è giusto che sia. E poi invece ci sono gli immigrati, quelli che scappano dalla morte sicura, dalla fame, dalle carestie e dai genocidi. E quelli vanno accolti, certo. Che quelli sono quelli che hanno più bisogno di noi. Il problema è che chi parla spesso di legge sull'immigrazione confonde le due categorie, volutamente le confonde. Senta, un immigrato che ha lavorato, facciamo un esempio, 15 anni, 20 anni in Veneto, comunque in Italia, e ha perso il lavoro e magari viene aiutato da voi a rientrare, deve perdere, secondo lei, per diritto, i diritti alla pensione che ha maturato lavorando 20 anni qui? Guardi, i diritti che uno matura perché ha pagato le tasse sono diritti maturati, punto e basta. È demagogico aggiungere altri ragionamenti a questo. Ma se se ne va, cosa facciamo? Mica andiamo, che ne so, in Congo a darglieli tra 10 anni. Ma guardi, noi abbiamo cittadini veneti che incassano pensioni marginali per aver fatto 4, 5, 6 o 7 anni o 10 o 20 che sono in Svizzera piuttosto che altre parti del mondo. Non è proprio questo il problema. Il problema forse è un altro. Il problema è che si cerca di trovare fuori tutte le scuse per non affrontare con tonicità e trovare una soluzione. Quanti sono i soldi? È il milione? Questa è la cifra corretta che il Veneto è pronto, e quanta parte di questo milione a destinare a questi prestiti d'onore? Beh, guardi, con molta correttezza diciamo che il budget è di 1 milione di euro. È un budget che verrà gestito in collaborazione, ovviamente, e in condivisione con la Consulta, che ha tutte le rappresentanze, peraltro, degli immigrati in sé, al suo interno. E non necessariamente tutto il budget, però pensare a un progetto di come si può dire, sostegno del rientro per chi non ce la fa più qui oppure vuol tornare a casa, direi che potrebbe essere una buona soluzione. Due ultime cose. La prima è appunto legata all'ex ministro Chieng. Adesso che questa vicenda è un po' finita, nel senso i 10 mesi al ministero, non crede che la Lega abbia un po' esagerato ad accanirsi contro la figura dell'ex ministro? Sicuramente il ministro ha giovato di molte polemiche stupide che sono nate anche da qualche esponente del mio partito. La verità è che il ministro Chieng per 10 mesi a spese dello Stato italiano ha girato in lungo e in largo per l'Italia, non solo, ma non abbiamo ancora capito tutt'oggi quale fosse il suo progetto. E glielo dice un ex ministro che ha fatto qualche mese di più della Chieng come ministro, e il metodo di misura dell'attività del ministro sono i provvedimenti. A me non risulta che il ministro Chieng in 10 mesi abbia minimamente scritto un provvedimento. Un ministero inutile, insomma, lei dice, non ha portato. Beh, poteva essere anche molto utile, sa. Io sono convinto che l'utilità o l'inutilità di un'operazione poi dipende da chi la gestisce, perché poi le idee camminano sulla gamba degli uomini e delle donne, come in questo caso. L'ultima cosa che le chiedo è questa: Renzi, venditore di pentole o un premier che decide e fa le cose finalmente, secondo lei? Guardi, di concreto io non sono un disfattista, vedo positivo e spero che comunque il presidente del Consiglio di turno possa comunque dare delle soluzioni, in particolare il mio territorio che paga 21 miliardi di tasse le vede letteralmente sprecate a Roma. E l'unica cosa concreta che io, da quello che ho capito io dalla conferenza stampa, è che si aumenteranno le tasse sulle rendite finanziarie. Dopodiché tutto il resto sono enunciazioni, bei propositi, staremo a vedere. Certo è che la vera sfida, io l'ho detto anche personalmente a Matteo Renzi, per il governo e per il governo in Italia è far pagare gli spreconi. Abbiamo regioni al sud che sono tecnicamente fallite, comunità che sono tecnicamente fallite, non possiamo continuare a mantenere i loro sprechi. E a questo proposito, Zaia, mi scusi, c'è un sms di un ascoltatore che dice: se si candida a Pompei lo voto. Pompei, non so se lei vuole fare sindaco di Pompei, perché questo ascoltatore evidentemente pensa che lei possa risolvere il problema di Pompei. Guardi, io penso una cosa, che le prime vittime del malaffare, della malagestio, degli sprechi del sud siano i cittadini del sud. Sono loro che pagano le spese. Loro devono fare questa rivoluzione. Non è possibile che un pasto in ospedale in Veneto costi 6,50 euro e in giro per l'Italia a sud arrivi a costare 60-80 euro. Quella è la vera spending review. Questa, e da Renzi non la vede, però ha detto: se a maggio non arrivano i soldi, mi perdoni, scusi, datemi pure poi, del buffone, ha detto. Se, poi mi zittisco. Renzi non ha speso una parola sul fatto che abbiamo gran parte del paese che non vive nella pubblica amministrazione in maniera virtuosa. E questo lei, questo, però il fatto che dica sono un buffone se non do i soldi a maggio, non le sembra che sia troppo alto il rischio per non farlo? Beh, poi ognuno fa le sue scelte di vita, diciamo che ha fissato un benchmark, no? Come direbbero gli inglesi, ha fissato un punto di riferimento, attenderemo maggio. Intanto la ringrazio Luca Zaia, grazie per essere stato con noi, governatore del Veneto, e visto che Renzi va da Angela Merkel lunedì e da Hollande, cosa chiederà l'Europa? Che chiederà l'Europa a Matteo Renzi? Secondo il Corriere della Sera andrà, col suo modo anche di comunicatore che ha già dimostrato, col suo modo e col suo fare politica in maniera come dire, anche per cercare di convincere l'interlocutore, a chiedere di poter sforare un attimo i parametri, i deficit, il 3%. Sarà così? Lo voglio chiedere a Tobias Piller, che è corrispondente d'Italia della Frankfurter Allgemeine Zeitung. Buongiorno Piller. Buongiorno. Chiederà questo, farà questa sfida assolutamente improba nei confronti di Angela Merkel, sforare il deficit? A me sembra che da un lato la Merkel faccia da un lato il tifo per chi vuole ristrutturare e fare riforme nel proprio paese. E in questo senso certo non si può guardare tutte le cose in modo da ragioniere dicendo ma hai già avuto l'entrata di questa somma lì e prima non la puoi spendere. Questo mi sembra è un pensiero un po' lontano. Dall'altro lato se la novità consiste solo nel spendere di più, certamente non sarebbe accettato dalla Merkel, in questo senso, ma non vedo problemi per in questo campo, perché si vede che hanno fatto dei calcoli anche se a maglie larghe e hanno ancora anche un po' di margine e vogliono rimanere sotto il 3% di deficit, non solo per i tedeschi, ma soprattutto per essere credibili anche di fronte ai mercati e certo, anche per non far crescere il debito. No, ma infatti oltre Angela Merkel, oltre alle cancellerie tedesche, alla presidenza francese, vedrà anche Hollande, e anche la Banca Centrale Europea che ci osserva con attenzione. Tra l'altro, Piller, dal punto di vista tedesco, come viene visto, per esempio, l'annuncio che è stato fatto da Matteo Renzi? Come un qualcosa di concreto, farò questo, oppure come il classico libro dei sogni per cui si dice vabbè, gli italiani dicono ma poi non fanno? Certo, gli italiani cambiano i governi più velocemente di altri paesi, ogni volta c'è un nuovo primo ministro, un nuovo ministro del tesoro, delle finanze, c'è qualcuno che dice quanto farà e poi qualche volta sparisce prima di aver fatto. Poi gli europei, e soprattutto in questo mi sembra Merkel, fanno il tifo perché l'Italia, che è dotato di tanti talenti e di tanti presupposti per una crescita e per essere un paese tra i più benestanti d'Europa, riesca a riprendere questa strada della crescita. Mm. Qual è la riforma che l'Europa, la Germania, ma l'Europa in generale, si aspetta come primaria dall'Italia? L'Italia deve essere competitiva nel mercato mondiale e questo dice non la Merkel o l'Europa in generale, lo diceva già Draghi quando era ancora governatore della Banca d'Italia, diceva che quando si conteggia un'ora di lavoro, un tot di capitale, un tot di terra, un capannone e così via, quel prodotto che si produce in questo modo è sempre meno in Italia, mentre in tutto il resto del mondo è cresciuto. Così la produttività in generale in Italia era così bassa che alla fine le imprese che sono la ricchezza dell'Italia ultimamente non sono nate in questo modo come era stato negli anni 80, e dall'altro le imprese grandi hanno cercato di produrre fuori dall'Italia, hanno lasciato la produzione, certo, in Italia. Resta da capire, Tobias Piller, come ultima domanda, se c'è preoccupazione in Germania per le forti spinte anti-europeiste che in Italia ci sono, certamente la Lega, certamente anche il Movimento 5 Stelle. C'è preoccupazione questo, visto che tra poco si vota? E ce ne sono anche in Germania, certo, tanti, in Europa. Tanti dicono ci sono dappertutto, solo non in Germania, allora cedete i tedeschi. No, in Germania sono ma dall'altro lato. Certo, non è una grande storia da offrire ai tedeschi, dire vi portiamo una grande novità, adesso si gestisce la moneta comune come abbiamo una volta già gestito la lira, o abbiamo fatto tanti debiti e così quando andiamo male vuol dire che state male tutti voi, allora pagate anche voi. Questi concetti certamente per i populisti in Germania suonano come delle fregature dall'Europa, e in quel senso gli do più ragione a loro che a politici italiani che sono abituati a spendere dei soldi dello Stato, e quando non ce ne sono più fanno delle polemiche inutili verso altri paesi, perché io penso che l'Italia ha tante possibilità di prendere una strada verso una crescita dell'economia privata e verso più occupazione nelle imprese italiane. Ma sicuramente deve fare però prima i cosiddetti compiti a casa. Ringrazio Tobias Piller, grazie, corrispondente della Frankfurter Allgemeine Zeitung, per essere stato con noi. Io lunedì e martedì non condurrò 24 Mattino, ma 24 Mattino va avanti, ovviamente. Ringrazio Elisabetta Fusconi, Alessandro Marco Tulli in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè in regia. Potete seguirmi anche su Twitter, Alino Milan nel mio profilo, mentre quello della trasmissione è 24 Mattino. Molto semplice. L'appuntamento è non con me, ma a lunedì 6:30. Noi ci siamo, noi ci siamo. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.